verso il futuro e oltre. Scuola, università, ITS. Dove e come prepararsi alle sfide di domani. Di Maria Piera Ceci. Scuole ancora chiuse. Purtroppo avremmo voluto raccontarvi oggi di una scuola che si avvia alla riapertura, ma così non è. Le scuole però, lo stiamo raccontando anche nel viaggio di questa settimana in onda ogni mattina nel GR delle 7, non si fermano. Grazie a dirigenti scolastici e insegnanti che davvero si stanno mettendo in gioco, stanno in tutti i modi cercando di non lasciare soli i loro studenti e anche di andare avanti col programma, visto lo stop prolungato. E allora proseguiamo a raccontarvi le esperienze che abbiamo raccolto per voi. Qui siamo a Milano, a casa di Lorella Carimali, insegnante di matematica e fisica al liceo scientifico Vittorio Veneto. Lorella ha allestito una postazione di lavoro nella sua cucina, computer e cuffie, e il gioco è fatto. Si fa scuola a distanza con la classe virtuale, lezione che vi faremo ascoltare nel reportage in onda domenica 15 marzo alle 8:15. Qua un assaggio. Lorella Carimali, allora, ma perché fare tutto questo in questo momento? Chi te lo fa fare? Chi me lo fa fare? Il fatto di essere una cittadina e di voler contribuire, dare un contributo alla nostra società in questo momento, ma soprattutto che cosa me lo fa fare? Il riconnettersi. Allora, il virus ci sta allontanando, ci porta a distanza fisica, ci porta lontano, no, dal nostro luogo della comunità, perché la scuola è comunità e luogo di relazione. E quindi soprattutto a me interessava togliere questa lontananza e fare riavvicinare, ma riavvicinare che cosa? Gli animi. Fare comunità, quindi riacciuffare i tuoi ragazzi che magari possono essere anche un po' turbati, un po' frastornati, sì, da questa situazione un po' straniante per tutti noi, e quindi forse ancora di più per dei ragazzi che magari hanno meno capacità di elaborare quello che sta succedendo. Attraverso però la matematica e la fisica, com'è possibile spiegare tutto quello che sta avvenendo attraverso la matematica e la fisica? Allora, prima di tutto, questo è uno stereotipo che continuo a voler abbattere, che è quello che la matematica sia solo far di conto. E la matematica è anche visione, oltre che pragmatismo, strategia. Allora, la matematica ci permette di andare all'essenza, no? Dei problemi e conoscere, perché se noi conosciamo possiamo in realtà avere meno paura. Quando tutta questa emergenza sarà finita, che cosa resterà di tutto questo lavoro che stai facendo da casa, che stai facendo a distanza con i ragazzi, quindi di questa nuova metodologia che stai mettendo in atto? Nuova per modo di dire, perché so che tu comunque l'hai già adottata e quindi non è stato un caso che poi sei stata così pronta a riproporla in questa occasione. No, quello che mi interessava riproporre in questo modo di fare, diciamo, si dice didattica a distanza, perché la didattica è oltre, no, le discipline. Era proprio far capire il senso delle cose, cioè io già in classe non faccio la lezione frontale, per questo che ho scelto uno strumento di videoconferenza, in modo tale che possiamo interagire non solo per le relazioni, ma per riprodurre la stessa modalità, perché mi sembrerebbe assurdo mettermi a fare lezioni in questo momento proprio di difficoltà che non ho mai fatto in classe. Capisco che sia difficile gestire 25 studenti online, devono capire che devono spegnere il microfono, ma è bellissimo, ma poi soprattutto ci si vede. È questa la vicinanza. Credimi, quando martedì abbiamo fatto la prima videoconferenza, io ancora ricordo, guarda, mi viene l'emozione proprio sulla pelle, ricordo i visi sorridenti, gli occhi che luccicavano, e anch'io la mia emozione di rivederli. Allora questo ti fa riflettere, quello che ho spinto loro anche a riflettere su che cosa vuol dire scuola. Che cos'è la scuola? Qual è il significato delle discipline? Qual è il significato dei rapporti tra tutti noi? Perché ci si accorge di quello che si ha quando poi non si ha più. Come usi la didattica tu normalmente a scuola? Quindi escludendo questo momento emergenziale. Alla matematica bisogna avvicinarsi con fantasia e spirito critico. E in questo le tecnologie come si inseriscono? Le tecnologie sono semplicemente per me solo uno strumento. Io dovevo ricreare la mia e nostra comunità. La tecnologia mi ha permesso in questo momento in particolare di ricreare quella stessa situazione formativa. Ecco, ma a scuola invece, in situazione normale, come la utilizzi? La tecnologia la utilizzo anche lì come uno strumento. Uso video, anche lì abbiamo usato ad esempio Skype perché ci siamo collegati con una ricercatrice di Washington per capire, un'italiana che fa ricerca là, come si fa la ricerca. Quindi diciamo che ho un piano didattico che è quello di sviluppare il pensiero attraverso la matematica. Fammi qualche altro esempio di utilizzo della tecnologia a scuola. Hai un computer in classe, sì. La LIM, che cos'hai? Noi abbiamo il computer in classe. Un computer per classe collegato con la LIM o il videoproiettore, quindi collegato all'interno e all'esterno. Questo è quello che poi noi facciamo, abbiamo il registro elettronico, ci permette di fare questo. Lo fanno tutti a scuola o qualche collega, qualche, non perplessità, magari qualche difficoltà a usare le nuove tecnologie, perché insomma è uno strumento che in effetti è entrato non da moltissimo. Allora, per utilizzare, per condividere documenti così, lo fanno tutti. C'è un po' ancora il pregiudizio, però i colleghi, le colleghe sono veramente molto coscienziose e ci tentano. Penso che lì sia poi una paura... Da non nativi digitali, sì, io lo capisco perché io ad esempio non sono tecnologica, quindi, però ecco, la differenza forse che vorrei anche consigliare alle colleghe e agli altri di non aver paura dei ragazzi, nel senso che io sono, posso dire, un po' impedita e in classe quando non funziona qualcosa dico e ci sono i nomi, vieni ad aiutarmi, fai questo, e loro sono bravissimi, cioè penso che noi dobbiamo fare questo passaggio che non è nostro, cioè il passaggio da una scuola dove c'è l'insegnante che spiega a una comunità che cammina verso la conoscenza, perché noi non abbiamo avuto questo esempio. Ecco, se si pensa di essere una comunità, questo diventa semplice ed è quello che mi tiene legata a fare questo lavoro. E quindi, finita l'emergenza, questa esperienza tutto sommato forse renderà la scuola migliore, perché ci ha quasi costretto a fare un passo in avanti veloce verso questa comunità digitale. Se non verso la comunità digitale, penso a riflettere che cosa sia veramente fare scuola e il valore proprio della relazione. Ci lascerà diversi questa esperienza a livello di anche di didattica. Io penso che ci lascerà migliore e questa noi dobbiamo trasformare questo momento negativo in un'occasione. Didattica digitale, questa è la chiacchierata che ci siamo fatti dunque con l'insegnante di matematica e fisica di Milano, Lorella Carimali. Didattica digitale che deve rispondere alle esigenze di tutti gli alunni, anche degli studenti con bisogni educativi speciali. A questo proposito mi piace segnalare l'iniziativa della casa editrice Ericsson che propone Dida Labs, un ambiente online gratuito per il supporto di attività didattiche nella scuola primaria da svolgere a distanza. Oltre 5.000 i docenti, ci segnalano dalla Ericsson, che si sono registrati già alla piattaforma. In Dida Labs ci sono oltre 400 attività multimediali create per rafforzare e potenziare le capacità dell'alunno attraverso esercizi e giochi motivanti negli ambiti della letto-scrittura e della matematica. Insomma, una didattica a distanza inclusiva che ci piace segnalare. Ora però ci trasferiamo a Conversano, in provincia di Bari. Siamo all'Istituto Professionale De Lilla. Tanti percorsi proposti al De Lilla, fra questi l'alberghiero. Siamo dunque in un professionale che sappiamo avere molta parte della didattica organizzata proprio sul laboratorio. Ma come si fa a fare didattica laboratoriale a distanza? La dirigente scolastica non si è persa d'animo e sta dimostrando che si può e come. Sentiamo allora come da Margherita Manghisi. Allora, ci stiamo regolando in questo modo. Per le lezioni frontali, quelle cognitive, abbiamo sempre il canale Meet di Google Suite, cioè aula a distanza, lezioni a distanza frontale. Per quanto invece riguarda la parte laboratoriale, abbiamo un canale YouTube sul sito della nostra scuola, sulla pagina della nostra scuola. Stiamo registrando nei laboratori, con pochissimo personale, solo un professore e un assistente tecnico, le lezioni pratiche, le stiamo caricando su YouTube, così i ragazzi possono vedere attraverso YouTube l'esecuzione esatta della ricetta. Invece, per quanto riguarda le produzioni audiovisive, i servizi culturali per lo spettacolo, abbiamo dato loro dei piccoli compiti, delle riprese, delle piccole riprese, e abbiamo detto loro di montare l'audio sulle riprese, di montare l'audio, oppure di montare una musica o di montare dei rumori sempre sulle riprese utilizzando delle figure retoriche. Oltre alle lezioni in presenza, cioè la spiegazione come si fa in videoconferenza e la parte pratica che seguono attraverso YouTube, sul registro virtuale, sul registro elettronico c'è la possibilità di assegnare dei compiti e loro possono poi fare la restituzione dei compiti caricandoli sulla pagina. Insomma, non è proprio scuola come se fossimo in tempi normali, ma ci si avvicina nonostante le difficoltà di mostrare ai ragazzi materie pratiche. Sì, la parte laboratoriale è la parte più complicata, solo con la registrazione è possibile, quindi caricando poi il video su YouTube è possibile per i ragazzi seguire, controvedere come si mette, si pone in essere una ricetta, un cocktail, una ricetta, una preparazione di una tavola, e poi loro possono, un'apparecchiatura di una tavola, registrare a casa l'esecuzione del compito, non utilizzando naturalmente liquori o cose, ma materie sostitutive, e inviare al video, al professore, caricandolo sulla piattaforma il video che hanno realizzato. Intanto loro sul canale YouTube dell'istituto hanno la possibilità di vedere la registrazione della ricetta, che è fatta in maniera tecnica, perché abbiamo un professore particolare e una telecamera che registra l'esecuzione della ricetta, dal materiale alla farina, lo zucchero, le uova, a come si mescola tutto passo passo, come se stessero a scuola. Certo, non possiamo controllare, poi non possiamo dare il prodotto finito, questo è difficile. I ragazzi come hanno reagito a questo nuovo metodo di studio? Allora, i primi 2-3 giorni hanno pensato che fosse vacanza, poi hanno cominciato a porsi problemi, e devo dire che stanno chiamando, si stanno mettendo in contatto, perché anche loro sono preoccupati e vogliono mettersi alla prova, quindi stanno collaborando, devo dire, stanno partecipando. Poi il fatto di dover registrare loro le ricette che magari fanno a casa un po' li diverte, utilizzare questi mezzi nuovi li motiva. Certo, non è come la scuola. Questa è la prima cosa. La seconda criticità è che non tutti i ragazzi hanno dei device all'altezza, e ci sono i ragazzi che hanno meno mezzi, che hanno mezzi non ottimali per questo tipo di distanza. Sta a noi scuola, perché dobbiamo dare a tutti le stesse possibilità, cercare di rendere tutto, di semplificare il più possibile i compiti, altrimenti avremo una scuola a due velocità. Chi ha l'infrastruttura più forte può offrire tanto ai ragazzi, chi ha l'infrastruttura più debole e quindi può offrire e offrirà di meno. Ragazzi dunque al lavoro anche con didattica laboratoriale a distanza, insegnanti e dirigenti scolastici che davvero se ne stanno inventando di ogni per non lasciare soli i loro studenti e per lasciarli senza scuola. A loro davvero va il nostro ringraziamento. Vi ricordo che stiamo realizzando nel mese di marzo un viaggio nelle scuole ai tempi del coronavirus e soprattutto un viaggio nelle nostre scuole più innovative. Le altre puntate le trovate sul sito di radio24.it. Approfitto anche per ricordarvi che domenica alle 8:15 andrà in onda il reportage in cui vi faremo assistere ad una lezione a distanza proprio con Lorella Carimali, che avete ascoltato in questo podcast. Saremo nella sua cucina e con i suoi ragazzi collegati dalle loro camerette. È stata davvero una bella esperienza, quindi vi invito ad ascoltarla. E poi sabato 14 marzo in edicola con il Sole 24 Ore, la guida realizzata insieme ai colleghi del giornale proprio sulla didattica a distanza. come si fa, quali sono le piattaforme utilizzate, quali le regole, le esperienze nelle scuole più innovative d'Italia. Dunque, sabato in edicola con Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per oggi, un saluto da Maria Piera Ceci.